@radio24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera abbiamo un ospite molto particolare. Ci è venuto a trovare in radio, è un cantautore famosissimo, ma sentiamo un po' qualche nota di uno dei suoi successi più famosi e vediamo se lo riconoscete al volo. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Io sono sicura, l'avete riconosciuto tutti, è Christopher Cross. Da un sacco di tempo non faceva album nuovi. Ne ha fatto uno che si chiama Dr. Faith e allora è arrivato a trovarci a Radio 24 per presentarcelo. Giulia, le sue canzoni fanno assolutamente parte della nostra vita e della nostra adolescenza. Lui è pronto con tutte queste nuove canzoni, è venuto a trovare noi, ma sarà anche ospite di Nicoletta Carbone venerdì 3 in Essere e Benessere. Noi l'abbiamo un po' così provocato, volevamo sapere un po' perché è stato in silenzio per tanto tempo e poi gli abbiamo chiesto come mai il suo album ha un titolo molto particolare. Si intitola Dr. Faith. Well, the song Dr. Faith is about psychotherapy. So we do this in America a lot. People go, I don't know about Italy, but so it's about psychotherapy and how people go to the therapist and sometimes they can get addicted. They have to go and their life becomes all about this person and this therapist. So it's a little bit cynical about that process. I believe in the process. My sister's a psychiatrist. But still, sometimes people are just, they can't live without it, every, you know, so it's a little bit cynical about that. E io chissà cosa credevo, cosa volesse dire questo Dr. Faith, e invece è una figura molto precisa il Dr. Faith, ci ha spiegato Christopher Cross. Sì, letteralmente appunto Dottor Fede, e dice the song is about psychotherapy, quindi è sulla psicoterapia, e poi dice we do this in America a lot, ne facciamo un grande uso, lo facciamo molto. Chi conosce magari il settimanale New Yorker sa che metà delle vignette sono in generale dedicate agli psicoterapeuti, agli analisti, e poi naturalmente c'è Woody Allen che ce lo racconta da una vita, il rapporto suo e forse anche appunto dell'America con i psychotherapist. I don't know about Italy, dice, non so come succede in Italia, probabilmente anche noi stiamo raggiungendo gli Stati Uniti poco a poco, però lui racconta un po' quello che succede in America, quello che lui vede, ecco. Sì, secondo lui questo fatto che people go to the therapist, che naturalmente therapist vuol dire terapeuta, e qui ci sono 5.000 sfumature, può essere una psicanalisi, una psicoterapia, può essere uno psicologo, sono tutti therapist, però lui dice le persone can get addicted vuol dire drogati di psicanalisi, esattamente come si può essere un drug addict, un drogato di una droga, o un alcohol addict, ecco, si può essere drogati di psicoterapia, they have to go, devono andare dal terapista. Lui non è contrario proprio di principio. Sì, dice I believe in the process because my sister is a psychiatrist, e qui naturalmente c'è l'equivoco in cui cade persino lui, e non dovrebbe visto che la sorella è una psychiatrist, perché gli psychiatrist non sono necessariamente dei terapisti, perché sono dei medici che non necessariamente sono dei psychotherapist, quindi mi dà l'idea che Christopher Cross, anche se ha la sorella psychiatrist, questa cosa non l'ha proprio provata, non ce l'ha neanche molto chiara in mente, ma la canzone è bellissima. I believe in the process, lui dice io ci credo, può servire, però insomma effettivamente non sembra molto a suo agio con il concetto. Dr. Faith è il primo album in studio di canzoni inedite dopo 12 anni, ma cosa ha fatto in questi 12 anni Christopher Cross e come è stato accolto questo album subito negli Stati Uniti non appena è uscito? The reception's been very, very, very good. I don't know whether it's just because it's been so long or the album's that good, but the journalists, the press, and reception has been very, very good. I think better than even since the early 80s, maybe. So I'm very pleased. But I do have young fans at my concerts. I would say they range from 20 to 70. Italy's always been a wonderful market for me. I haven't toured here a lot recently, but it's in the beginning it was a great market. I think, you know, the music is, my voice in the music's romantic, melodic, and I think it's a culture that relates to this kind of music. I mean, I've always said good success in Italy, let's say, compared to the UK. The UK is very trendy and not so sentimental, but Italians are romantic and sentimental, so that's good for me. sarà perché siamo così romantiche che siamo rimaste affezionate a Christopher Cross, anche se negli ultimi anni era un po' sparito. Però questo disco è piaciuto alla stampa, è piaciuto negli Stati Uniti e si aspetta qualcosa di buono anche dall'Italia. E qui c'è l'uso appropriato del termine reception, che è, non è proprio ricezione, anche se forse nessuno lo tradurrebbe così, ma è accoglienza. Tant'è che i desk degli alberghi non per niente si chiamano reception, quelli che incontriamo quando entriamo. Quindi the reception has been very, very good. Quindi è stato accolto molto bene. E poi lui dice, I don't know whether it's because it has been so long, quindi non so se poi sia perché it has been so long, era così tanto tempo che non usciva un mio album, or because the album is that good, o forse invece perché effettivamente si tratta di un ottimo disco. Beh, devo dire, abbastanza modesto. Non solo, poi si rende conto anche che ha nuovi fan e probabilmente questi nuovi fan hanno un animo molto romantico. Ecco perché si aspetta una buona accoglienza in Italia, magari meno nel Regno Unito. Sì, tra l'altro appunto ci cita, o comunque mi cita, perché cita gli early 80s, che quando io lo ascoltavo da preadolescente, e dice ancora adesso, I do have young fans, they range from 20 to 70, io ci sono proprio lì in mezzo, quindi to range from 20 to 70, e poi come dicevi tu, compara il mercato italiano con the UK, which is very trendy, mentre noi, secondo lui, siamo talmente romantic e sentimental che andiamo benissimo per le sue canzoni, o meglio, le sue canzoni vanno benissimo per noi. Canzoni soprattutto quelle del passato alle quali siamo legatissimi, lo dicevamo, abbiamo sentito questo Arthur's Theme, ma anche Sailing, Ride Like the Wind, siamo rimasti legati a questi vecchi successi di Christopher Cross. Ma lui cosa prova nei confronti di queste canzoni? Le ama ancora? Non le può più sopportare? Beh, gliel'abbiamo chiesto. I do, I'm very proud of them. I have to admit that just like with children, you know, you love all your children, but the little ones are the cutest and the most special. So most artists live in the present and the future, but I'm very proud of these songs, and in concert I play them. So they're what gave me the opportunities I have today, so I'm very proud of them. But I will admit that I'm always most excited about the new projects, but I think this is typical. I mean, I tour a lot. I did make a couple of other albums that weren't new songs, a Christmas and another album, but also I got a divorce. I was married for 18 years, so I got a divorce, and that takes time in your personal life to go through this kind of emotional thing. Also, I have children, so concerned about them. So that took a while. So all in all, you know, that, and then I started working on this album 3 years ago. So I don't know. I guess, you know, they say time flies when you're having fun. So I enjoy what I do. So it just took a while. Time flies when you're having fun, il tempo vola quando ti diverti, e infatti anche noi siamo all'ultimo estratto di questa intervista a Christopher Cross, che ci ha spiegato cosa ha fatto negli ultimi anni e poi davvero cosa prova nei confronti di queste canzoni alle quali noi siamo molto affezionati. E qui c'è l'uso di proud, che esattamente come in italiano sono orgoglioso di, I'm proud of, quindi I'm proud of these songs, queste canzoni, perché sono what gave me the opportunities to be what I am, quindi riconosce tutto il ruolo che hanno avuto queste canzoni. Però dice anche, e qui c'è una espressione interessante, che è, I will admit, I am most excited about new projects. I will admit letteralmente è ammetterò, ma in italiano non lo diremmo, è un rafforzativo, esattamente come sarebbe I do love them, le amo molto, quindi I will admit, in effetti ammetto che mi piacciono i nuovi progetti, anche se sono orgoglioso, proud of my old songs. Nuovi progetti, quindi questo nuovo album, questo Dr. Faith, ma in questi anni, abbiamo detto 12 anni senza un album di inediti, e che cosa è successo? Noi in Italia non abbiamo saputo praticamente più niente di lui. E lui ci racconta un po' della sua vita privata e dice I got a divorce, quindi si può dire sia I get divorced o I get a divorce, quindi divorzio o prendo letteralmente un divorzio, comunque insomma la sostanza è chiara, erano 18 anni che stava con sua moglie, hanno divorziato. E ci spiega, when you go through this kind of emotional things, ovviamente questo ha un effetto sul tuo lavoro, e quindi he started working on this album 3 years ago, quindi è passato del tempo, un po' assorbito dal divorzio, un po' dai concerti, è uno che va molto in tour, e poi 3 anni fa si è messo a lavorare su Dr. Faith. Ci sono due aspetti, quello del fatto insomma che è passato attraverso questo divorzio, preoccupandosi molto poi dei figli, perché lui ha spiegato che ha dei figli. Sì, ha dei figli e tra l'altro li paragona alle canzoni, o meglio, ci fa capire che per capire perché ama le sue vecchie canzoni, dice "You love all children, but the little ones are the cutest", quindi i piccoli sono sempre i più carini, e ci fa capire che insomma probabilmente ha figli che hanno ancora, che sono ancora piccoli. E questi bambini e il divorzio, insomma, gli hanno all in all, alla fine dice, insomma, alla fine metteteci tutto, questo all in all sta, calcoliamo tutto questo, e poi, you know what they say, time flies when you're having fun. Noi diciamo semplicemente il tempo vola, mentre l'espressione inglese è più lunga ed è time flies when you're having fun, quindi il tempo vola se ti stai divertendo. Peraltro ci ha raccontato che ha fatto anche degli altri album, gli album con le canzoni di Natale, se non ho capito male, insomma album non di inediti, e poi ha fatto un sacco di tournée, c'è proprio il verbo, abbiamo inteso. Sì, to tour a lot, e l'ha detto, e tra l'altro prima aveva anche detto che era passato tanto tempo da quando era venuto in tour in Italia, quindi Christopher Cross è sicuramente uno di quegli artisti che appunto magari non tanti album ma tantissime performance dal vivo che portano via un sacco di tempo, un sacco di energie che non può dedicarle a dei new albums, ma tant'è, adesso Dr. Faith è pronto. E se qualcuno avesse ancora la curiosità di sapere qualcosa su Christopher Cross, vi ricordiamo che sarà ospite di Nicoletta Carbone venerdì prossimo, venerdì 3 giugno. Noi dobbiamo salutarvi perché il nostro tempo è finito anche per questo English 24, con le solite raccomandazioni. Il nostro English 24 in edicola, tutte le anticipazioni delle nostre puntate di English 24 invece nella nostra pagina di Facebook. State cominciando a iscrivervi in tanti e ne siamo molto contente. I ringraziamenti a Mauro De Angeli in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.